Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Ma voi che diavolo vi credete di essere? Siete solo hobbits! Vedete, questa roba di dare addosso ai politici, cioè, la mattina, la sera e la notte, e poi dopo l'alternativa sono, non so, il papa re, le dittature, i carabinieri, non è che ci sono alternative migliori. Ho fatto fare uno studio ieri perché ero convinto che fosse un fotomontaggio. Non credevo ai miei occhi quando vedevo Silvio Berlusconi seduto a quel tavolo. E invece poi mi hanno detto che effettivamente era lui. Fosse stato con una bella ragazza, forse sarei riuscito a capire perché si è spinto fino a McDonald's. Renzi è trampiano nel modo più totale. Senza saperlo, trampiano, però. Anche saperlo. A sua insaputa. Un altro che è l'esponente del PD che dirige e presiede la campagna è un trampiano assoluto, che è De Luca. Poi ci sono i deboli, cioè Speranza, Rossi, che sono delle figurine così pallide come crepuscolari. Hai sentito, caro Sgarbi, dire che De Luca è trampiano? Com'è sta storia, presidente De Luca? Guardi che è andato del trampiano, vabbè, qua nella conduzione 4.0 dirà qualcosa anche lui poi a suo tempo, eh? Tra personaggio improbabile. Ah, ecco, appunto, perché mi sembrava, quindi non è trampiano De Luca, no, perché perfino esteticamente, diciamo. Sapete che anch'io sono un po' lombrosiano, quindi ci sta. Quindi possiamo certificare quello che ha detto Sgarbi, non è vero, cioè non è trampiano presidente De Luca, no? Questa specie di nido di quaglia, di cincia allegra che si porta appresso, questa vela al vento. Mi sembra allora che dal punto di vista almeno del giudizio estetico non lo sia molto trampiano. Va bene, continuano i nostri esperimenti di conduzione 4.0. Prestissimo, prestissimo, io me ne vado e Vincenzo De Luca condurrà 24 mattino qui dalle 6.30 con questa formula proprio 4.0. Ormai siamo proiettati nel futuro, la tecnologia. Che spettacolo. Appunto, ci siamo, ormai siamo a un passo. Saluto tutti i nostri ascoltatori, è venerdì. 1, 2, 3, anche che le venerdì. E segnalo che a Trinità, in provincia di Cuneo, ci sono 7 gradi, come ci fa sapere Silvana, mentre a Tavazzano 5 gradi. A Milano sono 10, eh? Ah, oggi c'era una brezza fantastica. A Varese 11 gradi e fun a Varese, dai, su. 10 gradi a Volterra, 8 gradi a Perugia, ringraziando Luca. Oh, Ezio, stanno arrivando al punto di ritrovo con Ezio, ci sono 9 gradi, adesso arrivano gli amici a prelevarti, Ezio, come tutte le mattine. Stai lì e non spostarti, non ti preoccupare, non spostarti. A Prato ci sono 5 gradi, ringraziamo, ciao Debosciati, ciao anche te Debosciato. 7 gradi a Pavullo nel Frignano, salutiamo Roberto, eh? Salutiamo anche Monaco di Baviera, guarda questa è bella, qui ad Attendorn nel Nordreno Vestfalia c'è meno un grado, ci fa sapere Tonio, ci sta ascoltando da lì. A Porto Ceresio, sul lago di Lugano, ci sono 6 gradi e un'alba meravigliosa. Grazie a Marco. Ed è venerdì, non mi Eh sì, allora devo salutare il nostro senatore che fa le colazioni migliori al mondo il venerdì per la sua Virginia. Si tratta di Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico. Buongiorno, senatore. Buongiorno. Come va lì a casa? A casa Esposito? Per ora dormono tutti, ma adesso urliamo un po' e cercheremo di svegliarli così. Cerchiamo di dare una scossa. Va 9 bene. Gradi ci sono a 9 gradi a Torino e poi arriva Renzi al Lingotto e lì la temperatura sale 15, 16, 30, 40 22, gradi. 22, si può arrivare fino a 22. Ah, ecco, sopra. No, ma io intendevo. Siamo sopra media. Ma io intendevo, dai, su il l'energia che ci metterà. Allora, Stefano Esposito, le presento una signora, una collega, una giornalista, una che ormai scrive sul Fatto Quotidiano, scrive per La Verità, lavora alla 7 a bianco e nero con Telese. Insomma, una di quelle che potrebbe usufruire, se fosse all'estero, della tassa da 100.000 euro perché è diventata una riccona per tornare in Italia, Luisella Costa Magna. Finalmente la mitica Costa Magni falli neri. Ma chi falli neri? Buongiorno a tutti. Ma chi è che dovresti fare io nero? Io ho 100.000 euro da dare. Eccoli subito. Per questa tassa allucinante, ecco, diventiamo subito paradiso fiscale. Ieri mi ha scritto una mail, rispondo pubblicamente, mi ha scritto una mail un gentilissimo ascoltatore dicendo che ho preso in giro questa tassa, ma io non mi sembra averla presa in giro, non ho... Sì, gli ospiti, c'erano Brindani, era Lussana, e ecco, vedi, adesso anche Luisella Costa Magna, com'è che l'hai definita allucinante questa tassa? Sì, ma cioè, che diventiamo un paradiso fiscale, invogliamo... Ma no, perché è un paradiso fiscale? Magari. Certo, pagare meno tasse, no? Vabbè, ma no, pagare sì, meno tasse è un accordo. È un accordo. L'Italia l'anno dopo tornano alle Cayman, l'anno dopo nel Liechtenstein e intanto risparmiano. Ecco. Vabbè, ma no, ma nel senso vengono qui e le attività rimangono all'estero, se rimangono all'estero vengono tassate all'estero come no, vabbè. Facciamo come in Gran Bretagna con la sta, no? Ma non sei contenta che anche Briatore oggi dice con questa cosa appunto, adesso potrai tornare in Italia? Mi citi Briatore, sapevo. Dai, dobbiamo aprire il Parlamento. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Dai, adesso Stefano Esposito, uscendo dal politichese, domani Renzi che cosa farà? Cosa dirà? Che cosa rivelerà all'Italia e al mondo? Cosa farà nella sua Torino? Beh, adesso le rivelazioni non me ne aspetto, poi vabbè, noi siamo a Torino. Siamo una città della città del mistero, della sindone, per carità, però non so se no, adesso credo che proverà sul serio, sì, perché neanche nella necessità politica a rispondere a tutte quelle che sono state critiche, sì, anche pesanti, sì, richieste di porti, le ultime, tanto per intendersi, con la lettera di Chiamparino e Sala. Ecco, io credo che se lui ripartisse da lì, cioè da una risposta a Chiamparino e Sala, dimostrerebbe di aver colto uno dei punti centrali, diciamo, secondo me, che si è affrontato. Ma che ne sanno gli italiani della risposta di Chiamparino? Ho capito, Sala, se parliamo di politica, ogni tanto bisogna anche approfondire. Poi, se invece vogliamo parlare ma ho detto cosa dirà gli italiani, risponderà a Chiamparino e Sala. No, gli italiani fanno... questo, no, io ho detto cosa spero che lui faccia. Ah, cosa dirà, francamente, lo scopriremo domani. Lo scopriremo vivendo. Anzi, in realtà lo scopriremo oggi, perché lui parla oggi. Sì, infatti. Quindi è oggi la giornata. So, Luisella, cosa dovrebbe fare Renzi? Ecco, una che non lo ama tantissimo è Luisella Costamagna. Andare all'estero. A pagare le tasse. A pagare le tasse in un paradiso fiscale. No. Luisella, che dovrebbe... Cosa ti aspetti da Renzi? Mi aspetterei che per una volta tanto mantenesse la parola, voglio dire, aveva detto che tornava a vita privata, ecco, dopo vedi, il suo... Vedi. bel referendum, dopodiché io non ho nessuna ossessione, solo è singolare che prima mi dichiarano che ero ossessionata con Berlusconi, adesso con Renzi, quindi il problema sono quelli del PD che... Sei un po' ossessionata col potere, sei ossessionata dal potere. No, in quanto giornalista mi ritengo un contropotere, dovrebbe essere quello il ruolo dei giornalisti, no? Dei cani da guardia del potere, infatti invece sono diventati dei cani da salotto del potere. Mi aspetterei, mi piacerebbe mantenere la parola, ha detto che andrà a fare il professore universitario. Sì. Che, ma no, questo non lo farà, dai, adesso sei ancora ancorata alla speranza che Renzi, ma questo è ovvio, cioè che torna e sta tornando nell'agone politico. Ma infatti non manterrà la parola e la sparerà ancora grossa, ma lo vedo malino il ragazzo ormai, lo vedo piuttosto male. Lo vedo malino il ragazzo, ma perché? Per l'inchiesta, per le vicende? C'è tutta una serie di cose per cui ho visto anche gli ultimi sondaggi, danno il PD al 25%, il tracollo, non c'è una riforma che abbia fatto, che abbia funzionato, il bilancio di 3 anni del governo è abbastanza, anche senza abbastanza, devastante. E quindi... Capito, Esposito, bocciati su tutta la linea. E cosa... La Costamagna fa il cane da guardia con la testa girata da un'altra parte e fa bene a fare quel mestiere lì, però sinceramente io e lei abbiamo già litigato in qualche trasmissione che adesso sia stato tutto così devastante Costamagna, sinceramente sembra che abbiamo preso un paese ricchissimo che aveva l'occupazione a 1000 e lo abbiamo devastato. Era esattamente il contrario, abbiamo fatto qualcosina in più. Mi avete dato il colpo di grazia, in più l'abbiamo fatto. No, ma non abbiamo fatto abbastanza, per carità. Però qualcosina in più l'abbiamo fatto. Cioè, avevamo tutti i segni meno, e abbiamo messo dei segni più. Oggi Renzi fa un'intervista alla Stampa e dice noi abbiamo fatto poco riformismo, non troppe riforme, riforme abbiamo fatto. No, ma tutte le riforme che sono state fatte sono state bocciate in qualche modo dagli italiani. Jobs Act, infatti c'aveva una disoccupazione all'11,9, un anno fa era all'11,6, stiamo peggiorando pure nella disoccupazione. Vale. Dopo aver tolto dei diritti ai lavoratori, per cui ovviamente mica è tutta responsabilità di Renzi, stavamo malissimo pure prima, diciamo. No, perché c'è un po' la tendenza a dire insomma, piove, c'è Renzi. Adesso c'è... ladro. però voglio dire, stavamo male prima, adesso ci abbiamo avuto un bel colpo di grazia rispetto a quello che ci sono appunto i diritti. Vabbè, no, ma io non voglio farvi litigare su Renzi, sentiremo poi cosa dirà. Ma non è tutto straordinario, per esempio Salvini va a Napoli, cioè capite, la politica è bella, perché ti riserva delle cose. Domani Salvini terrà un comizio a Napoli al grido di Napoli è la mia città, cioè col sindaco De Magistris che sfilerà con i centri sociali pronto a fermare. Questo è quando è andato al Mattino 2 giorni fa a fare un'intervista nella quale ha chiesto scusa in tutti i modi. Vabbè, lì erano a contestarlo in pochi, ma Esposito, qual è la situazione in cui si è trovato più in difficoltà? Quella proprio in cui ti hanno Roma. Una sera di 3 o 4 anni fa sono andato a fare un'assemblea in una scuola in Val di Susa. Sì. L'uomo pro TAV, Esposito, l'uomo pro TAV. E mi ricordo che c'era uno schieramento di c'erano più poliziotti che persone che erano dentro la scuola. Mi ricordo quella sera. Sì, che bello. Pochi coraggiosi. E ci hanno staccato anche la luce. Cioè, ci hanno lasciato anche se. In che senso? Hanno sabotato la cabina elettrica della luce. Ma è stupendo questo. Cioè, un boicottaggio sano. E ci hanno anche lasciato senza luce. Un casino. Eravamo 30 persone, erano venuti 30 coraggiosi. Ci hanno lasciato per mezz'ora senza luce. Sì. E per uscire, siamo dovuti uscire con un cordone di. C'era la forza pubblica. La forza pubblica, infatti, che devo dire. Quelle cose un po' tristi, poi per carità erano anche lì centri sociali, perché qui sono sempre i centri. Vuoi dire qualcosa sui centri sociali? Così poi. cercando di toglierti qualche sassolone. No, vuoi dire qualcosa? No, ma io lo dico, guarda, figurati, mi hanno anche dato una in primo grado, sono stato anche condannato per diffamazione, perché ho detto che a Torino, noi siamo noti a Torino per avere un centro sociale, e ho detto, ma mi sembrano gli scimmiottatori, dei terroristi, e c'è un giudice che mi ha condannato a 600 euro di multa per aver diffamato quattro persone per bene che hanno una fedina penale lunga, diciamo, un chilometro, però non gli puoi dire che si scimmiotta. Infatti adesso ho fatto l'appello, naturalmente. Primo grado, com'è andato il primo grado? Mi hanno condannato a 600 euro di multa. 600 euro di multa, e perché li avrei diffamati. Ma paga gli 600 euro. Ma no, ma figurati, è una questione di principio. Vabbè, però devo andare al traffico, poi voglio ritornare da Luisella Costamagna, voglio sapere che ne pensa di Salvini a Napoli. Poi voglio sapere altre cose, vabbè, non anticipiamo troppo, tra poco. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Milan, hai dato ragione a quel semolino di Gentiloni lì sul Mago Merlino, ma scusa, la Spagna cosa fa? La Spagna fa dei blocchi attivi dei barconi. Intanto siamo seduti sull'Africa. Per far sparire i soldi meglio di Mago Merlino. Flat tax da 100.000 euro per favorire l'immigrazione dei ricchi. Già avvistati i barconi da Monaco e Saint-Tropez. Sono un uomo equilibrato, sono un uomo che non ha mai preso decisioni avventate. Sono un uomo appassionato, qualche volta accalorato. Ho sentito mia madre ieri dire che mi ha dovuto calmare tutta la vita, questo è vero. Grazie, Emiliano, non si arrabbi. Rimonta come il Barcellona, Emiliano? Sì, sì. Io non so se rimonto, nel senso che non sto tanto indietro. Vabbè, Emiliano, o mai niente, c'è la moda della remontada, la remontada. Ieri quando ho detto qua in redazione, oh che remontada al Barcellona, Elisabetta Fusconi da noi, a grande appassionata di calcio, ha detto, ma che si mangia? Che ricetta è che stasera la provo, la remontada? No, niente. Allora, cara Luisella, hai sentito i bella i barconi da Saint-Tropez, eh? Sì, ma infatti quello che dicevo io, no? Arrivano per un momento, si risparmiano un po' di tasse, poi vanno da un'altra parte. Tanto per loro il mondo è globalizzato. Vabbè, se tu fossi napoletana, saresti contenta di vederti Salvini domani che fa il comizio? Che problema c'è? Siamo in democrazia, che può? Non può andare a Napoli a fare... Ma infatti non credo, credo che per i napoletani sarebbe peggio vedere Higuaín. Diciamo. Questo un po' è vero, eccola qua. Però non parlate della Higuaín. Guarda che è Juventina anche Luisella, è Juventina anche Luisella. Siete due gobbi, vedete che trovate un punto di accordo. Anche perché siamo in precampionato, stasera c'è Juve Milan. Esatto, sì. Dopo vi chiedo abbiamo anche un trascorso comune con Esposito, la Pantera, però non so se lui era con la Pantera, nel senso col poliziotto dell'epoca. Io ero con la Pantera e tirato dei gradoni di Palazzo Nuovo a Torino, i centri sociali che facevano i guappi, quindi sì, ero con la Pantera. Con la Pantera in che senso? Cioè, perché Luisella contestava. L'occupazione del movimento universitario. Esatto. Occupavo Palazzo Nuovo a filosofia contro la riforma dell'università voluta dall'allora ministro Esposito. Te lo ricordi? Te lo ricordi il concerto di Gianna Nannini? Beh, è fantastico. Te lo ricordi? Mi ricordo. Sono partiti litigando, si sposeranno a Grazia 24 mattina. Lui sarà stato con i Celerini. Stava con te. Stava con te. Ti sbagli, sei sbagliato stamattina, che bello. Stava con te, era con la Pantera, occupava con la K. Abbiamo avuto dei percorsi molto distanti, sì, infatti trovavo una consonanza in quello e nella Juventus, per il resto non la e le origini torinesi. Sono già tre cose. L'università ha unito la vita di... diciamo, c'è gente, Luisella, che si sposa per molto meno, avete già tre cose in comuni abbastanza forte. No, quindi. No. Preferisco stare single tutta la vita. Adesso va bene. Allora, però, Luisella, allora, a Napoli Salvini va? A Napoli Salvini, quindi. No, ma non lo vedo, insomma ci prova, non riuscirà, ma ci prova. Dopodiché tornerà a fare il listone, faranno un bel listone col centrodestra alle prossime elezioni, quando e se ci saranno, così come lo faranno per il centro-sinistra, perché il vero nemico di entrambi è il Movimento 5 Stelle. Eccolo lì, certo, vabbè, questo è abbastanza ovvio. Allora, io non lo so, vi voglio chiedere in tre minuti questa cosa che intercetta anche il fatto che Esposito, voi le leggi non le fate mai e quindi i giudici decidono senza di voi. Hanno deciso a Firenze che due uomini, una coppia gay che hanno adottato un figlio in Gran Bretagna, ora questa adozione deve valere anche per l'Italia. Esposito, la questione è che qui, se voi non normate, i giudici fanno quello che vogliono, capito? È una cosa che succede spessissimo in Italia, però anche lì adesso purtroppo non siamo riusciti a completarla, però aver fatto la legge su quello che poi non è il matrimonio, ma insomma sì, aver riconosciuto le unioni civili, lì è mancato perché non c'erano purtroppo i numeri. L'ultimo miglio, anzi no, neanche miglio, gli ultimi metri. No, perché si è sempre detto i gay non adottino assolutamente, nella legge no, è sempre stata esclusa. E invece però, vedete, dentro il Parlamento, quello lì, il Parlamento, non il Parlamento, sì. Su questo tema non siamo riusciti a trovare i numeri. Io ero per l'operazione complessiva, compresa la child adoption, come viene chiamata. Noi l'avevamo detto, guardate che ciò che non faremo noi verrà fatto nelle aule di tribunale, perché poi il mondo va avanti a prescindere. Quello che non si capisce molto spesso in Parlamento da parte di alcuni colleghi è che se non fai una cosa non è che il mondo si ferma e ti aspetta. Procede. Ma questo è sempre la discrepanza tra quello che è appunto quello che si vuole normare e quello che è la vita reale. Luisella, no, io vi devo chiedere un pronostico a questo punto. Vi devo chiedere un pronostico. Per la Juve? Scusa, noi poveri tapini milanisti siamo attaccati ancora a queste partitelle del venerdì. Forti. Va bene, dai, faccio un pronostico, così poi settimana prossima vediamo se. Stasera, Juve-Milan. 3-1 per chi? Per la Juve. Questo tu lo davi per scontato. Anch'io un po' lo do per scontato. 3-1, bene, grazie. Caro Stefano. Ma io intanto sarò allo stadio, quindi volendo. Ma chi se ne frega, a tifare pure, no? A tifare assolutamente. Penso che sarà una partita da 2-1 invece. Per? Per la Juve. Che arroganza! Un gol per tempo e poi segnerà non so bene chi del Milan intorno all'85esimo, 86esimo della Juve. No, 2-0. Il gol della Bagni così all'85esimo. Perché vengono un po' di tifosi del Milan, almeno fargli vedere un gol, sembra brutto, no? Ragazzi, pagare il biglietto. Sono così. Peter Bescapè, regia lì, scuote la testa. Lorenzo Despre, sono arroganti i Juventini. Niente, sono arroganti e avranno ragione, perché vinceranno davvero. Hai capito? Sono arroganti e vincono comunque. Va bene, niente, dai. Vi devo salutare, cara Luisella Costamagna, caro Stefano Esposito, senatore del PD. Saluti anche a Virginia, che chissà se si è svegliata. Buona colazione e alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Eccoci qui alle 7:20 minuti, anzi ormai 21 minuti, cari ascoltatori, cari amici di 24 mattino, nello spazio dedicato alla lettura dei giornali. Questa è la rassegna stampa. E allora